Buona giornata a tutti, buona giornata e benvenuti all'ascolto. Mattinata speciale, particolare quella di oggi su Blu Radio Veneto. Il saluto che vi arriva da Mirko Cavallin in diretta oggi, non dallo studio ma in esterna. Ormai ci stiamo abituando ad andare in esterna. Siamo a Padova, alla Multisala Pio Decimo, l'MPX di Padova, per la quarta festa nazionale di avviso pubblico legalità organizzata. Prevenire e contrastare le mafie al tempo della crisi. Avviso pubblico è un'associazione di enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie, nata nel mito di collegabilità, cultura della pubblica amministrazione e nei territori. Questa mattina seguiremo il primo incontro, poi domattina alle 10.45 ancora in diretta, cittadini si diventa, come e perché educarci alla responsabilità. È iniziata la mattinata con la voce dell'assessore del Comune di Avviso Pubblico, Claudio Piron. Ringrazio vivamente tutti gli ospiti che hanno accettato con passione di essere con noi in queste tre giornate, a partire da questa giornata molto importante dedicata al mondo della scuola e della formazione. Vi confesso che sono un po' frastornato per le adesioni che abbiamo ricevuto e anche perché ieri a quest'ora stavamo salutando un nostro carissimo amico che vedete lì, il professor Luigi Mariani, preside di ingegneria per molti anni e vice sindaco, assessore all'urbanistica, nonché un grande amico per molti di noi, ai quali ha insegnato come fare politica in modo retto e onesto. Mi piace ricordarlo a voi ragazzi. Grazie a tutti e a ciascuno per la vostra presenza, che va ogni oltre aspettativa, tutto esaurito stamattina e anche domani mattina. E grazie agli ospiti, a Pico, a Chiara, le studentesse, al direttore del mattino che ci aiuta a riflettere stamattina. Grazie a Don Luigi Ciotti che è instancabile per il suo impegno, lo definirei quasi un pellegrino della legalità e della giustizia. È molto altro per noi. Grazie a Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di avviso pubblico. È davvero un amico grande per noi e grazie a tutti gli amici di avviso pubblico per la fiducia che hanno riposto nella nostra città, chiedendoci di prendere il testimone da Corleone, dove l'anno scorso abbiamo fatto la precedente festa nazionale di avviso pubblico, e questo mi dà modo di salutare tutti gli amici della Sicilia, della Puglia, della Calabria, del Lazio, della Campania, di tutte le regioni e le città dove in questi 8 anni siamo stati ospitati con i nostri viaggi della legalità e partecipando alla giornata in memoria delle vittime di mafie. In particolare vorrei ricordare gli amici, l'amministrazione e tutti gli amici, le scuole di Mesagne, che ci hanno ospitato. Mesagne, che è la città di Melissa Bassi, è diventata nell'attentato tragico alla loro scuola intitolata a Falcone e alla moglie Francesca Morvillo. E voglio ricordare anche tutte le ferite in quel vile attentato. Mi dà modo questo di ricordare anche che il 2012 è l'anno in cui ricordiamo Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, sua moglie, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, uccisi sull'autostrada a Capaci il 23 maggio del 92, 20 anni fa. E poi Paolo Borsellino con Agostino Catalano, Emanuela Loi, prima giovane donna in servizio di scorta, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina, Claudio Traina, uccisi il 19 luglio del 92 in via D'Amelio. Ma ricordiamo anche Pio La Torre con Rosario Di Salvo, uccisi il 30 aprile dell'82, 30 anni fa. E poi Carlo Alberto Dalla Chiesa con la moglie Emanuela Setti Carraro, e Domenico Russo, che li accompagnava, uccisi a Palermo il 30 settembre dell'82. Vi chiedo, ragazzi, di metterci in piedi per portare rispetto a queste e a tutte le vittime delle mafie e dedicare loro una nostra pausa, un nostro pensiero. Un minuto di silenzio dunque per tutte le vittime della mafia, delle mafie. Siamo in diretta dal Cinema MPX di Padova per la quarta festa nazionale di Avviso Pubblico, che inizia oggi e si concluderà sabato, le prime due giornate oggi e domani all'MPX, la terza invece all'auditorium del Centro Culturale San Gaetano. Se cittadini lo diventeremo, lo dobbiamo anche a loro. Saluto e ringrazio tutti i partner, le istituzioni che ci hanno sostenuto. Abbiamo in prima fila la Diocesi di Padova con il Vicario Generale, l'Università con il Prorettore Vicario, la Camera di Commercio, Banca Etica, il Provveditorato che è presente con il Dottor Iacolino per il sostegno e la presenza che ci hanno assicurato. Questi tre giorni avete soprattutto voi giovani un compito molto alto. È quello di mettere insieme idee e proposte per costruire un progetto di legalità organizzata, quasi a dire che lo sforzo di ciascuno, se rimane isolato, non può dare un risultato efficace. È la sfida questa che abbiamo di fronte: come affrontare l'attacco frontale che le mafie stanno portando anche al nord del paese, come al centro, al sud, al paese intero, ma anche all'Europa. Perché, diceva Don Peppe Diana, ucciso a Casal di Principe il 18 marzo del 94, perché, diceva Don Peppe, le mafie tolgono i diritti, la dignità, la vita, non solo con le armi, uccidendo e violentando i corpi, ma svuotando le anime e assassinando la speranza. Allora oggi cittadini si diventa il tema. È un'affermazione forte, convinta, decisa che vi rivolgiamo. Cittadini si diventa se fin da piccoli siamo educati a tirare fuori il meglio di noi stessi, ad assumere da subito le nostre piccole o grandi responsabilità consone alla nostra età e alle nostre capacità. E gli adulti in questo devono avere il coraggio di provocarvi. Altrimenti succede quello che in questi giorni ci sta, come dire, ci rende sgomenti. Cancro gravissimo, quello della corruzione in tantissimi pezzi della società, fino anche nelle istituzioni, l'egoismo sfrenato, un pezzo di bene comune che viene messo a repentaglio, serio rischio, e rischiamo di distruggere le istituzioni che sono la garanzia per la vita di tutti noi, soprattutto dei più deboli. Ecco, allora oggi non a caso partiamo dall'educare, nella scuola, oggi pomeriggio nello sport, nelle associazioni. Nei luoghi di vita, prima la più avere la massima cura. Ora daremo a voi la parola. Alcuni sono schierati e li ringrazio per le loro testimonianze, per il loro impegno, ma ringrazio anche voi, spero avremo tempo di sentire anche qualcuna delle vostre voci. Prima però, se siete d'accordo, se mi lasciate ancora 3 minuti, vorrei darvi una prova che siete proprio voi giovani i protagonisti veri, responsabili anche di questa grande avventura per noi, di questa 3 giorni bellissima che vivremo assieme. Vorrei vedere Lucia. Dov'è Lucia? Lucia Chiarello, dov'è? Vieni qua per piacere. Lucia è un dipendente del comune di Padova. Lucia non lo sa che la chiamavo, però io ho bisogno di lei. Lei non può più continuare a fare la maestra d'asilo e a rimanere con i suoi bambini per un motivo, succede, vieni Lucia, succede spesso alle nostre insegnanti. E Lucia ha dovuto ritrovare una motivazione forte per lavorare in comune. Non è solo un problema di posto di lavoro. Lucia a metà tempo segue la segreteria di Avviso Pubblico, ma non lo sta facendo come un lavoro per sbarcare il lunario. Lo sta facendo mettendo tutta se stessa. Io non sono in grado di contare i sabati, le domeniche, le ore che ha regalato. Stai qua, stai qua, stai qua. E vorrei anche Francesca. Dov'è Francesca? Francesca, dove l'hai nascosta? Francesca è fuori, qualcuno la recupera, grazie. Francesca ha avuto l'idea qualche anno fa, nel 2008, di partecipare ad un viaggio della legalità. Siamo andati sulle Alpi Marittime a fare la strada che gli ebrei hanno fatto per scampare dalle persecuzioni. E poi ha fatto un video molto bello, è stata premiata, ma ha avuto la fortuna di essere con noi in alcune altre occasioni come questa. È all'Università di Ferrara e ha deciso di chiedere al nostro assessorato di svolgere un tirocinio formativo. Doveva essere un mese, sono diventati due. Anche lei sta dando molto di più di quanto richiede. Là si parla di tutto e quindi voglio ringraziarle e voglio che voi dedichiate loro il vostro applauso, se siete d'accordo. Adesso lavoreranno ancora la mia segreteria personale dell'MPX che ci accoglie oggi e domani, perché hanno fatto davvero i salti mortali, e grazie ai giovani di Becco Giallo per la mostra che vedete all'esterno, davvero merita la vostra attenzione. Vorrei concludere con questi due passaggi. In questa giornata dedicata alla scuola, un pensiero agli studenti e ai professori, un messaggio che avrei voluto dare al ministro Profumo, che purtroppo non può essere con noi. Per diventare cittadini, per crescere nelle responsabilità, per assumere i doveri, la priorità assoluta, io sono convinto, è l'attenzione alla scuola, perché lì sta uno dei fondamenti dell'educazione di ottobre. Eravamo qui per ricordare Don Milani con una sala così gremita, guardando il film e ascoltando i suoi allievi. E in quei giorni mi sono arrivati molte situazioni di grande disagio e di grande fatica da parte di insegnanti, in particolare della formazione professionale regionale, che da mesi non ricevono lo stipendio, che da due anni conoscono la cassa integrazione. E sentite cosa mi ha scritto uno dei tanti che... Ascoltate audio, è con difficoltà e con non poco travaglio che ti scrivo. Ieri ho accompagnato una classe alla proiezione Don Milani, priore di Barbiana. Ne sono uscito come un pugile suonato. Don Milani è stato per me più che un maestro. Lettera a una professoressa, l'obbedienza non è più una virtù, hanno veramente influito sulla mia vita, obiettore di coscienza a 20 anni, insegnante oggi. Ed ecco il punto dolente, la relativa fatica a esternarti il mio profondo disagio. I centri di formazione professionale, nell'indifferenza totale, stanno lentamente morendo. Alcuni hanno già chiuso. A metà dei formatori è in cassa integrazione da 2 anni o da 6 mesi. Tante piccole Barbiana stanno scomparendo. E tu sai che i ragazzi che frequentano il CFP sono moderni ragazzi di Barbiana, anche se noi insegnanti forse non siamo dei tanti piccoli Don Milani. Ma le scelte politiche stanno sfasciando tutto in nome di illusioni, spread ed altre artificiali diavolerie finanziarie, appositamente propagandate come novelle bibbie, tanto per gettare fumo negli occhi alla gente comune. I soldini per i privilegi della casta, per le guerre, si trovano sempre. Al popolo non resta che scendere velletariamente in piazza. Accettare la realtà non significa rassegnarsi. Ovvio che anche oggi si andrà in classe, con l'obiettivo che domani i ragazzi prendano, e qui prende una frase di Don Milani, meno calci nel culo possibile. Ma mi spiace dirlo, e questo a me ha fatto molto male, basta con la politica e quanto di più lontano dalla realtà. Grazie per l'invito alla proiezione. È sempre rigenerante confrontarsi con una fonte di ispirazione come il maestro Don Lorenzo Milani. Un caro saluto, un abbraccio, un insegnante. Io credo che questo dolore, questa sofferenza, queste fatiche grandi ci devono dire qualcosa. Il primato della scuola, della formazione, della cultura, prima di tutto i giovani. Allora guardiamo in faccia la realtà rimbocchiamoci le maniche, altrimenti non sarà possibile nessun progetto di legalità organizzata. Ancora Don Milani, e vi saluto, diceva: la scuola ha un solo problema, i ragazzi che perde. E poi, se si perde loro, i ragazzi più difficili, la scuola non è più una scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Questo volevo ricordare al Ministro, ai parlamentari, ai consiglieri regionali, a tutti coloro come noi che hanno delle responsabilità amministrative e politiche. Diceva Gesualdo Bufalino, uno scrittore ripreso da tanti magistrati che girano per le scuole: per sconfiggere la mafia è necessario un esercito di maestri elementari, insomma un esercito di insegnanti. Ecco, ripartiamo da qui. Buon lavoro, anzi buona scuola, ragazzi, e non rinunciate mai di chiedere ai vostri insegnanti di aiutarvi a diventare cittadini responsabili. Era l'assessore alla cultura del comune di Padova, Claudio Piron, coordinatore regionale di Avviso Pubblico. Buongiorno a tutti. Mi pare che le parole dell'assessore siano il modo migliore per iniziare questi tre giorni. Io ho il compito solo di passare la parola, e quindi adesso per brevi saluti chiamerei il Monsignor Paolo Doni, il vicario generale della diocesi, che è il nostro padrone di casa, è giusto che gli sia riservato un saluto e anche un pensiero sul tema di questi giorni. La voce che avete appena sentito è quella del moderatore e il direttore del Mattino di Padova, Antonio Ramenghi, ora il vicario generale Monsignor Doni. Stavo dicendo padrone no. E davvero un ringraziamento prima di tutto a tutti voi che siete qui presenti per una convocazione così importante e così profonda. Desidero dire un grazie a nome di tutta la diocesi all'assessore Claudio Piron, instancabile e appassionato organizzatore di questi momenti che fanno bene a tutti, a voi ragazzi, ma alla città, a tutti noi. Un grazie a tutti gli ospiti, i relatori che sono stati invitati e che hanno accolto l'invito. Io vorrei soltanto, permettetemi una piccola cosa, sottolineare l'importanza di questo, di quello che andremo dicendo e ascoltando in questi giorni. Per essere cittadini non bastano delle leggi fatte dallo Stato. Ci vuole una struttura della coscienza personale molto precisa e molto forte. Non è una concessione, sì, dopo è una concessione, ma prima di tutto è una struttura, una capacità di stare in piedi, dentro, con la coscienza. Si diventa cittadini perché siamo capaci e abbiamo la dignità di essere cittadini. E quindi per questo pretendiamo che nessuno ci tolga la dignità e la possibilità di essere cittadini. Ma questo mette in gioco tutta la nostra capacità. La nostra capacità e la nostra dignità. Educarsi, bellissimo. Lasciatemi fare anche un altro piccolo collegamento. C'è quel signore che non è tra i relatori, ma è soltanto fotografato, l'ha ricordato prima l'assessore Pilon, il professor Luigi Mariani. L'abbiamo sepolto ieri, dopo una malattia veloce. Vedete, un uomo così. Mi piace dare questa testimonianza del professor Mariani, lo conoscevo anche perché abbiamo lavorato molto insieme. Non era semplicemente un responsabile come insegnante di una facoltà, preside della facoltà di ingegneria, come vice sindaco, come un uomo politico. Non era solo questo, o meglio, era questo perché aveva una struttura personale di onestà. E lasciatemi dire anche, radicata nella sua fede cristiana. Nella sua fede cristiana. E lui diceva, è da là che io prendo tutta la forza che mi permette di fare seriamente l'insegnante, il vice sindaco, l'amministratore, l'uomo di scienza. Eccola qua la struttura. E vedete, io credo che la nostra società, la nostra Italia, la nostra Padova, il nostro territorio è stato, è e può essere quello che è stato sempre, perché ci sono uomini così, oltre a tutti quelli che l'assessore Piron citava prima. E sono disseminati in tutto il territorio nazionale, io dico anche fuori dal territorio, in tutto il mondo. Il mondo va avanti perché ci sono uomini, donne, di tutte le età, di tutti i colori, di tutte le religioni, che sono capaci di essere così. È bellissimo. Io auguro a tutti voi ragazzi che le beviate, cercate di berle queste giornate, di farle entrare dentro. Auguri, buon lavoro a tutti quanti. Grazie Monsignore. Dovevo dire ospite, non padrone di casa, ma mi scusi. Ecco, adesso do la parola al prorettore, al professor Francesco Gnesotto. L'Università di Padova, come sapete, ha fatto questo corso di alta formazione contro le mafie. Avremo una testimonianza in giornata importante, quindi il prorettore, prego. Sì, grazie. Io a nome del rettore vi porto il saluto più cordiale di tutta l'Università di Padova, che partecipa con grande condivisione a questa iniziativa del Comune che ha portato nella nostra città questa quarta festa nazionale di avviso pubblico, e ringrazio di questo anche il coordinatore nazionale per aver scelto Padova questa volta. Cittadini si diventa, è il titolo della tavola rotonda che inizierà tra pochi minuti. Giustissimo, credo, il cittadino va educato alla legalità fin dall'infanzia, nella famiglia, fin dai primi passi nella scuola e poi nell'età in cui avete voi, perché sviluppi la solida convinzione che una vita sociale regolata dalla legge è un bene prezioso per la collettività e quindi per ciascuno di noi. Credo che anche l'università abbia una grande responsabilità in questo senso, soprattutto nel formare educatori competenti su tematiche così delicate e così decisive per il futuro del nostro paese. Ecco, mi fa molto piacere vedere che già stamattina interviene Chiara Grattoni, studentessa del nostro corso di alta formazione per il contrasto sociale alle mafie e il rafforzamento della legalità democratica. Ecco, io termino ringraziando l'assessore Claudio Piron per avermi invitato a porgere questo saluto a nome dell'Università, ma soprattutto per il suo entusiasmo e la sua perseveranza con cui riesce a coinvolgersi, a coinvolgerci. Auguro a tutti voi e soprattutto a voi ragazzi che alla fine di questi 3 giorni possiate tornare a casa con la convinzione che assieme ce la possiamo fare. Grazie. Grazie professore. Adesso do la parola al professor Paolo Iacolino. Provveditore, anzi dirigente, perché adesso ha cambiato nome, io quando andavo a scuola si chiamava provveditore, avete cambiato nome, comunque è lui. Sì, la sostanza non cambia. Buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi, ecco io ho lasciato tutte quelle 1000 cose, pastoie burocratiche, graduatorie, carte, per venire qui a salutarvi, proprio 2 minuti, solo per così sottolineare come posso l'importanza di questo evento, di questi 3 giorni. È molto importante, è così importante che ho lasciato tutto solo per venirvelo a dire. Sono giornate di scuola, scuola nel senso elevato, perché siamo chiamati ad un'educazione, a cercare di quello che possiamo, di fornirvi strumenti per affrontare la società, per affrontare la realtà, per diventare grandi, perché non vi consegneremo una grande Italia, una grande società, lo leggete anche voi. Però almeno cerchiamo di darvi degli strumenti per poter avanzare. Sentirete sicuramente parlare di pensare mafioso, di come queste cose non sono lontane da noi, che forse noi pensiamo siano al sud, per noi abitiamo a Padova e non ci coinvolgono, invece non è così. Ecco, allora prendete queste proprio come giornate educative, esorto gli insegnanti proprio ad andare in questa direzione, siamo chiamati ad una educazione alla cittadinanza, ma non perché ce lo dice la comunità europea o perché abbiamo sottoscritto protocolli, li abbiamo fatto, ma perché ci crediamo. Ci crediamo perché l'unica cosa che possiamo lasciarvi in eredità è uno strumento per diventare adulti, per diventare cittadini liberi. Buona giornata. Ecco, grazie. Intanto saluto il questore Montemagno che ci ha raggiunto questa mattina, è qui con noi, e adesso do la parola al coordinatore nazionale di Avviso Pierpaolo Romani, e che è un po' l'animatore di questi tre giorni, che ha scelto la nostra città, e credo che un'organizzazione come Avviso Pubblico, Selga Padova e Selga il Nord, per parlare di mafia e di educazione alla legalità, perché come abbiamo visto, ahimè, anche al Nord le infiltrazioni mafiose sono forti, e c'è un titolo nel volantino e dice: al prevenire e contrastare le mafie al tempo della crisi. Credo che proprio sia uno dei momenti più pericolosi per la convivenza civile. Le mafie prosperano con la crisi, hanno possibilità di penetrare anche nel tessuto sociale, economico, dove magari in passato non riuscivano, perché la società, la comunità era più forte. E quindi questa attenzione in questo momento, soprattutto per quanto riguarda, credo, le cosiddette mafie dei colletti bianchi, quindi la penetrazione nelle imprese, nelle amministrazioni, è più a rischio che in altri momenti. Quindi grazie a Paolo Romani, che ha scelto Padova per questi tre giorni di Avviso Pubblico. A te la parola. Sì. Ciao a tutti, grazie infinite di essere qui questa mattina, grazie ai vostri insegnanti, gli educatori, gli operatori sociali, che hanno creduto in questo cammino insieme a noi. Vorrei dire che io non ho scelto come singolo, ma abbiamo scelto insieme, perché Avviso Pubblico è questa rete di comuni, di province, di regioni, di amministratori locali che in questi giorni vedrete camminare e partecipare alle iniziative nella vostra città. Sono già arrivati degli amministratori locali dalla provincia di Treviso, che saluto, Maria Grazia Tonon, che è la referente per Treviso di Avviso Pubblico, Andrea Benini, vice sindaco di Follonica, una città in provincia di Grosseto. Altri stanno arrivando in queste ore, non solo dalla Toscana ma da altre regioni, proprio perché Padova in questi tre giorni, abbiamo detto, diventerà la capitale della legalità e dell'impegno. Porto i saluti di tutta la presidenza di Avviso Pubblico, che non ha potuto essere qui presente questa mattina, e porto i ringraziamenti anche alla Regione Veneto e alla provincia di Padova, che ci hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa. E vorrei ringraziare la prefettura, la questura, gli agenti delle scorte, i poliziotti, i carabinieri e tutti coloro che permettono a noi di vivere queste tre giornate. Vi ringraziamo di tutto cuore. E vorrei ringraziare altre due persone. Claudio Pirone è stato bravo, ma li vedrete in questi giorni, si chiamano Neva e Alessandro, sono due ragazzi giovani che lavorano a Firenze in Avviso Pubblico e che sono stati insieme a Francesca, che è la nostra colonna portante, che due giorni fa ha partorito un bellissimo bambino di nome Dario, non ha potuto essere qui per quello, però ecco, ricordatevi e salutiamo anche loro tre. Perché l'abbiamo deciso di fare in Veneto e nel Nord-Est questa iniziativa? Beh, certamente queste terre non sono terre di mafia, anche se hanno conosciuto l'esistenza di una organizzazione chiamata Mafia del Brenta, ma sono oggi terre che interessano molto alle mafie per fare affari, per riciclare denaro e per vendere e smerciare quantitativi molto importanti di sostanze stupefacenti. Qualche dato, ecco perché noi ci interessava mettere luce su questa parte dell'Italia, sul nord-est e sul Veneto, ma anche per far vedere quanta positività c'è in questa regione, nelle scuole, nell'imprenditoria, negli enti locali, nelle università, nei sindacati. Ecco, proviamo anche a metterli insieme in una cornice di impegno condiviso e comune. La nostra, nel nord-est, vi do due dati solo di numero, nel nord-est al 3 settembre di quest'anno ci sono 119 beni confiscati, di cui 84 nella regione Veneto. Si trovano soprattutto nelle province di Venezia e di Verona. E poi un altro dato molto brutto, molto, che ci ha colpito molto. Pensate che dal 2002 al 2011 Nel Veneto sono morte 330 persone per assunzione di sostanze stupefacenti. Sono 330 persone che attraverso l'uso di queste sostanze sono state coinvolte in circuiti e reticoli pericolosi e altamente criminali e mafiosi. E poi c'è un dato della Banca d'Italia che parla delle operazioni finanziarie sospette, cioè di chi cerca di investire del denaro, ma bisogna cercare di capire bene da dove arriva quel denaro, perché forse non è proprio pulito, ha un odore un po' puzzolente. Ecco, vi devo soltanto dire che nel Nord-Est e nel Veneto le percentuali di scoperta tra il 2010 e il 2011 di queste operazioni sospette sono aumentate di quasi il 10%. Segno quindi che abbiamo delle persone anche attente, brave nelle istituzioni a controllare, ma segno anche che la nostra regione è oggetto di particolare attenzione. Questa è la regione dove 30 imprenditori, di cui 3 solo l'altro giorno, si sono suicidati, perché non ce l'hanno fatta ad andare avanti, a portare avanti il loro progetto, che non era semplicemente un progetto di lavoro, ma era anche un progetto di vita, perché le banche, le finanziarie, insomma, per varie ragioni non davano più loro credito. Ma qualcuno in Veneto si è già presentato per prestare dei soldi, per poi comprarsi le aziende ed entrare nel mercato dell'economia legale, senza creare allarme sociale. Ma attenzione a non fare l'errore, questo lo vogliamo gridare con forza, di pensare che se arrivano i soldi poi non arrivano gli eserciti anche delle mafie. Quello che sta succedendo in Lombardia e in Piemonte credo che sia una testimonianza forte in questi giorni. E allora, nel salutarvi e nel ringraziarvi di cuore veramente tanto di essere qui, ci terrei anche a dirvi questo: mi ha colpito molto la lettera che ha letto Piron prima. Ecco, come avviso pubblico noi cerchiamo di organizzare, di mettere insieme gli amministratori per bene, che ci sono. Non c'è la politica e l'antipolitica, c'è una buona politica e una cattiva politica, politici onesti e politici disonesti. Allora proviamo a difendere e a diffondere la buona politica e a sostenere le persone che dentro le istituzioni si impegnano, come avete visto poco fa. Grazie a tutti, ci accompagnerete in questi 3 giorni e quindi buon viaggio a tutti. Grazie Romani. Allora io chiudo questa parte, prima parte, dandovi lettura, vi leggo il messaggio che ha mandato all'assessore il ministro Francesco Profumo. Gentile assessore, è con vivo rammarico che per precedenti impegni istituzionali già calendarizzati in agenda non mi consentono di essere presente a Padova il prossimo 25 ottobre per il convegno sulla legalità organizzata. Desidero esprimere tutto il mio apprezzamento per le 3 tematiche educazione, economia e politica che tratterete e che rappresentano i pilastri per una sana e corretta società. Educare i ragazzi al raggiungimento della consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri è uno degli obiettivi fondamentali della scuola. Indirizzare i giovani a credere nei valori inalienabili delle leggi, delle loro regole, del senso di giustizia nel pieno rispetto e applicazione della Costituzione. Questo è il mio impegno e di tutti coloro che promuovono iniziative inerenti all'educazione alla legalità. Esprimo pertanto i miei più sentiti auguri a tutti voi e a tutti coloro che sono promotori di iniziative culturali e sociali a sostegno di un valido processo di crescita del nostro Paese. Francesco Profumo. Ecco. Adesso passiamo alla cosa che personalmente aspetto con più interesse, che è il video fatto dagli studenti che hanno partecipato ai viaggi della legalità in questi anni e sono stati organizzati dal Comune di Padova e sono state, per chi le ha fatte, esperienze davvero straordinarie. Per cui vedremo in prima insieme il filmato e poi due dei protagonisti, delle protagoniste di questi viaggi ci racconteranno com'è andata. Grazie, può partire. Ecco qua, perfetto. Siamo in diretta dal sala Multisala MPX di Padova per la quarta festa nazionale di Avviso Pubblico, in diretta su Blu Radio Veneto questa mattina e anche domani mattina. Oggi termineremo intorno alle 11:30, domani invece l'inizio alle 10:45 fino alle 13. Il video sta proponendo alcune immagini, alcuni testi appunto dei viaggi fatti da questi studenti, Viaggio della Legalità 2012. Come abbiamo sentito, tra poco gli stessi studenti testimonieranno quanto hanno visto a voce. Il video adesso io cerco di descrivervelo nel passaggio, nella testimonianza alla giornata di Potenza. Le parole evidenziate dai giovani sono legalità, clientelismo, lavoro, potere, povertà, giustizia sociale, zona grigia. Queste alcune concetti che vengono espressi, i giovani e la legalità appunto, e questi giovani che in tanti affollano oggi l'MPX e lo affolleranno anche nelle prossime ore. Ciao, come ti chiami? Costa Martina. Alcune testimonianze. Ci spieghi come viene percepita la legalità fra i giovani? La legalità tra i giovani, soprattutto del nord, è scarsa, perché c'è una concezione quasi che l'illegalità non sia del nord, mentre invece tra i ragazzi del sud, come abbiamo avuto modo di vedere quando abbiamo fatto la manifestazione a Potenza, tra i giovani c'è molta voglia di portare la legalità nel loro paese, e è stato visto perché nella manifestazione erano insieme a noi, c'erano tanti ragazzi. Chiunque parli dietro la maschera è libero di dire ciò che vuole, perché non lo riconoscerà nessuno. La mafia non è un concetto astratto, bensì una realtà concreta. È composta da delle persone che, dietro a un movente di protezione o di qualsiasi altro motivo, sono disposti a far del male alla gente. Non bisogna guardare la mafia come un fenomeno che non può tangere nessuno. La mafia è anche una realtà storica. Bisogna tornare all'inizio del secolo per vedere come l'assenza di uno Stato unitario abbia favorito la formazione di uno Stato parallelo. La mafia tende a sostituire lo Stato, dove lo Stato non è presente. Ecco, abbiamo un problema audio dalla sala, non arriva più, non riusciamo a capire se si sia bloccato il video che adesso veniva proposto sugli schermi dell'MPX, e noi siamo in una saletta all'esterno della sala appunto per questa diretta. Niente, si deve essere bloccato, cose che succedono adesso. Si sono riaccese le luci in sala. Vediamo se gli inconvenienti tecnici, probabilmente si rinuncia al video, purtroppo, a queste testimonianze, e ripartiranno poi i giovani, testimonieranno direttamente. Il video è ripartito dall'inizio a questo punto, vediamo se andando avanti riescono a recuperare il punto dove era stato interrotto. Abbiamo sentito alcune testimonianze appunto in questo montaggio fatto dai giovani. Vediamo se il video riparte lì dove si è bloccato oppure no. Probabilmente no, da quello che riesco a intuire. Peccato anche per chi ci ha lavorato, evidentemente è sempre faticoso, insomma, proporre una sintesi del viaggio, pensarlo anche dal punto di vista tecnico, realizzativo. Speriamo che poi sia recuperabile in qualche altro modo. Niente da fare, il video si è bloccato. A questo punto i giovani parleranno direttamente adesso dall'interno della sala con le loro testimonianze. Scusate, allora, nell'attesa magari riusciamo a farlo ripartire dopo, io a questo punto chiedo a Ilaria De Rossi e a Rebecca Milanesti, che sono due delle studentesse che hanno partecipato a questi viaggi di raccontare la loro esperienza fatta con, dicono loro, i professori e l'istituto con cui hanno fatto la loro esperienza, per dare un riconoscimento anche a chi vi ha dato una mano, giusto? Allora Ilaria, cominci tu? Ok. Accendi. Ok, ora va. Buongiorno a tutti. Nell'aprile scorso abbiamo svolto un viaggio della legalità in Sicilia, in cui abbiamo visitato luoghi e incontrato persone legate alla lotta contro la mafia. E durante il viaggio abbiamo capito che sapere e informarsi sulla mafia e tutto quello che sta accadendo nel nostro paese è importante, perché dobbiamo reagire e combattere tutto ciò. Per informarsi sono state istituite delle associazioni come Libera e Addio Pizzo, di cui abbiamo il piacere di avere la nostra guida del viaggio Pico, e che servono per combattere tutto ciò. Lascio la parola a Rebecca. Grazie. Allora, questo viaggio per noi è stato molto importante, penso per due motivi principalmente. Intanto perché ci siamo resi conto che sapevamo ben poco della mafia rispetto a quanto credevamo. Sapevamo poco di nomi come Falcone, Borsellino, eccetera, sapevamo chi fossero, ma non sapevamo collocarli nel tempo. E grazie appunto a Pico e alle persone che abbiamo incontrato, siamo riusciti a capire di più per quanto riguarda la Sicilia di mafia, ma anche abbiamo conosciuto la Sicilia che vuole riscattarsi. E conoscendo i volontari di Addio Pizzo abbiamo capito che anche noi giovani possiamo fare qualcosa, e quindi è per questo che è importante educare alla legalità. Molto spesso ci sentiamo forse estranei a quella che è la politica e la cittadinanza, ma vedendo che ci sono dei ragazzi poco più grandi di noi che si sono uniti per realizzare qualcosa di concreto, penso che sia stata una grande spinta anche per noi. Abbiamo capito che non è solo la Sicilia ad avere dei problemi, quindi non dobbiamo considerare sempre ma tanto noi siamo lontani, è a centinaia di chilometri da noi, forse dobbiamo renderci conto che anche magari a 100 passi da noi c'è qualcosa da realizzare. Pensavo, ci avvisano loro quando, se eventualmente il film. Io credo che, alcune domande io ce le ho, ma le lascerei per dopo, per voi, da rivolgere domande al tavolo. Io alle due studentesse, chiederei, poi lo faccio dopo, ma comunque chiederei quali sono stati le differenze che hanno notato tra i colleghi studenti, gli amici studenti del sud e la situazione qua, e quindi quali atteggiamenti soprattutto, perché come diceva giustamente prima l'assessore, la legalità è una cosa che si fa con, diceva Monsignore per la verità, si fa con le leggi, ma si fa soprattutto cambiando se stessi e mettendosi personalmente in un atteggiamento di rispetto delle leggi, che poi vuol dire sostanzialmente rispetto degli altri. Ecco, credo che questo sia il dato di fondo. E il problema delle mafie è proprio che non hanno rispetto delle persone, non hanno rispetto dei valori che dovrebbero condurre la vita dei cittadini. In questo momento io ho alcuni amici, colleghi sotto scorta, per aver lavorato, per aver fatto il loro lavoro, essenzialmente per aver fatto il loro lavoro con serietà, con scrupolo, e sono stati pesantemente minacciati. Lirio Abbate in Sicilia e Giovanni Tizian, tra l'altro vivo anche questa apprensione, perché è proprio a seguito di articoli che pubblicò sul giornale che dirigevo, è stato costretto a vivere sotto scorta perché è pesantemente minacciato, e chi lo ha fatto purtroppo non è ancora stato assicurato alle patrie galere. Va bene, adesso come dice? Sì, se volete rispondere subito, volentieri. E quando siamo stati in Sicilia, da parte delle persone che abbiamo conosciuto e anche dei ragazzi, abbiamo notato forse un maggior interesse, nel senso che loro sono comunque più coinvolti direttamente da quella che è la realtà di mafia. Alcuni coinvolti nel senso che dicono che hanno paura, magari che non si sentono capaci di poter fare nulla, e altri invece come i volontari di Addio Pizzo, che hanno capito l'importanza che possono avere nella lotta contro la mafia. Quindi c'è questa, diciamo, qui al nord c'è comunque molto meno, nel senso che ci rendiamo conto lontanamente di quelle che sono le problematiche, di quello che può accadere, insomma. Procediamo adesso, tocca a Chiara. Chiara Grattoni ha partecipato al master, anzi credo l'abbia finito, no? Sì. Al master che ha istituito l'Università di Padova, che è un master diciamo abbastanza innovativo, no? Non è che ce ne sono tanti in giro per l'Italia, e quindi anche la sua esperienza ci può essere utile e può servire anche magari a qualcuno per orientarsi negli studi a venire. E quindi Chiara, puoi raccontarci intanto che cosa avete studiato al master, cioè un po' il tuo curriculum per vedere come si arriva, e poi anche ci dici, finito il master, qual è la tua prospettiva, il tuo pensiero di lavoro. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio in primis l'assessore Piron e tutto il suo gentilissimo e preparatissimo staff. Sono molto contenta che la festa di avviso pubblico sia, insomma, la sede sia stata quella di Padova, perché da universitaria nostalgica colgo ogni occasione per tornare a Padova. E, allora, la mia esperienza, quando mi è stato chiesto di partecipare e di dare una testimonianza oggi, io vorrei semplicemente dare una testimonianza di quella che io chiamo la normalità. Io non ho fatto percorsi, insomma, abbiamo la fortuna di vivere in una realtà piuttosto felice, in un'isola quasi felice del nostro paese, quindi sicuramente, ne parlavamo prima con Pico, non c'è stata quella da subito quella consapevolezza. Mi sono iniziata a interessare alle tematiche di legalità e di antimafia, come credo molti di voi, conoscendo Libera alle scuole superiori. Ho iniziato un percorso di rappresentanza studentesca, perché credo molto che la scuola sia il posto giusto dove iniziare. E da lì è iniziata la mia passione, e faccio politica, non mi vergogno a dirlo, e forse per spirito di contraddizione, insomma, di questi tempi, ho iniziato ad interessarmi di tematiche relative al mio territorio, quindi non so, partendo con le commissioni giovani, delle politiche giovanili, la commissione pari opportunità nel mio paese, fino a quando nel 2009 ho partecipato alle elezioni amministrative del mio paese, sono stata eletta e ad oggi sono il presidente del consiglio comunale di Fossalta di Portogruaro. La fortuna... Possiamo fare un applauso a un presidente così giovane? Grazie. La fortuna che ho avuto nel mio percorso è stata quella comunque di essere vissuta, insomma, di vivere tuttora, di lavorare in un paese relativamente piccolo. Il mio paese conta poco più di 6.000 abitanti. Di conseguenza l'amministrare, quindi anche il far politica, diventa, ha un riscontro subito immediato, no? Quindi le decisioni che prendi le vedi perché conosci le persone, perché sai che se aiuti la famiglia la vedi davanti, vedi le difficoltà, ci sono i problemi, i pulmini, la scuola, ci sono dei disagi. ad oggi l'ente locale ha sicuramente subito un duro colpo rispetto a tagli vari di risorse, quindi anche come amministratore non è facile poi riuscire a trovare la giusta amalgama tra quelli che sono i tuoi ideali e quelle che poi sono le risorse da poter mettere in campo. Quello che volevo trasmettere a voi oggi è che è assolutamente possibile farlo e, ripeto, normalità, perché io non ho fatto passi da gigante eccetera, mi sono buttata forse per incoscienza, forse appunto per interesse. Si può sbagliare assolutamente, e, certo è che credo che oggi come oggi il fatto di poter dire la propria idea e poter comunque prendersi uno spazio che non deve essere lasciato da altri, è uno spazio che è già nostro. Nelle istituzioni democratiche e così nella comunità civile, quindi ognuno con le sue doti, con le sue passioni, le sue interessi può sicuramente dare un contributo. E poi badate bene, sono le piccole cose che fanno i grandi cambiamenti, quindi anche divertendosi, portando avanti insomma dei progetti. Ho iniziato quindi ad interessarmi in maniera un po' più diciamo anche a livello di formazione, perché ho partecipato a un campo di volontariato di Libera a Castel Volturno in Campania, partendo con le mie idee, con i miei ideali e quindi con una, la chiamerei quasi una bandiera più che altro culturale, quindi la lotta alla mafia come una battaglia assolutamente di civiltà. Ho riveduto anche le mie posizioni, nel senso che ho scoperto che ho sentito veramente la violenza che è stata fatta in alcune terre. Mi sono sentita molto italiana in quelle terre, molto cittadina, e mi sono sentita anche tradita da alcuni italiani che sicuramente hanno fatto di quella terra e del nostro paese veramente a volte una discarica per tanti versi. A quel punto, ovviamente vivendo l'esperienza da un punto di vista anche assolutamente goliardico, perché non c'è solo l'impegno, ma insomma si creano gruppi di amicizie, di conoscenze, abbiamo creato gruppi di lavoro, abbiamo iniziato a fare del volontariato con delle associazioni di Scampia, io ho portato il mio sindaco, la mia amministrazione nelle terre che avevo visitato, quindi si creano tutta una serie di contatti che vengono da sé. Però sentivo la necessità, una volta tornata a casa, una volta vissuta questa forte esperienza che rivedo un po' nei ragazzi che hanno fatto il viaggio della legalità, di fare qualcosa per il mio territorio. Non è stato facile cercare di mettere insieme la quotidianità dell'amministrazione, quindi quando sei presa la delibera, il consiglio, i regolamenti, con le tematiche della legalità, e ho sentito assolutamente il bisogno di andare a scuola. E sono tornata all'università, mi sono iscritta a questo esperimento che Padova ha voluto portare avanti, quindi un corso di alta formazione, e il titolo è azzeccato: per il contrasto sociale alle mafie, quindi come la società con le pubbliche amministrazioni, con l'impegno dei singoli cittadini può veramente affrontare il problema delle mafie. Questo per capire quello che stava succedendo al nord, questo per capire non tanto per essere preparati a una possibile ondata che poteva arrivare da chissà quale realtà, ma quanto perché sono profondamente convinta che le mafie e alcuni atteggiamenti che sicuramente sono legati alle mafie entrano laddove c'è un vuoto. E di quel vuoto noi siamo responsabili, io credo assolutamente questo, quindi ognuno di noi appunto ha non solo il dovere morale, ma comunque deve proprio sentirlo come suo, quindi l'invito che faccio a voi è: andate e respirate l'odore della nostra terra. Una cosa soltanto volevo ancora dirvi: mi dispiace moltissimo che oggi qui non sia presente, sicuramente motivato, il ministro dell'istruzione, perché avrei avuto il piacere di dirvi insomma e di dire quanto siamo talmente abituati a sentir parlare ad oggi dei costi della politica, di sprechi. Siamo talmente, abbiamo le orecchie talmente piene di sentire come lo sperpero di denaro pubblico viene veramente perso in meandri che un po' si conoscono e un po' purtroppo ancora no. Credo che ci siano delle terre e credo che questo nostro paese abbia pagato un costo anche più grande, un costo legato alla civiltà, alla democrazia. E credo che trovare le risorse per la scuola, soprattutto pubblica in questo momento, per portare avanti progetti, formazione per gli insegnanti e per gli studenti, sia un dovere che bisogna portare avanti. Quindi noi ci faremo sicuramente carico di rompere le scatole come studenti e come cittadini, però credo che il governo da questa parte deve assolutamente mettersi al lavoro. Grazie. Grazie Chiara, adesso è atteso, perché ho sentito che c'è molta attesa per il tuo intervento, Picco di Trapani, di Addio Pizzo. Sapete che è un'associazione che sta facendo un lavoro enorme e che, mi diceva poco fa Pico, aumenterà ancora la propria attività grazie a nuovi accordi fatti, giusto? Ecco. Recentemente. Esatto. E quindi do la parola a lui, che ovviamente è portatore di esperienze, di conoscenze che sicuramente ci interessano. Ci interessa sentirle raccontare. Picco è stato vicino con la sua associazione molto anche a chi fa il mio mestiere, che è stato oggetto di minacce e quindi sa benissimo, meglio di tutti, qual è il ruolo che una stampa libera, una stampa con la schiena dritta può fare nella lotta alle mafie. Comunque si camuffino, noi abbiamo visto che soprattutto al nord non abbiamo assistito, almeno di recente, a fatti che facciano colpiscono l'opinione pubblica, fatti di sangue, non spara quasi più la mafia, ecco, si infiltra, e abbiamo visto purtroppo anche nella politica in modo subdolo ma molto efficace e ottenendo i risultati che vuole. Quindi il contrasto che le forze di polizia, carabinieri, la Guardia di Finanza, soprattutto in questo periodo la Guardia di Finanza potrebbe essere uno strumento molto importante nella lotta alle mafie, ma soprattutto far crescere nella società civile questo senso di legalità. Io l'altro giorno ho incontrato una serie di professionisti e dicevo a loro: in questo momento la tenuta contro la mafia, l'infiltrazione mafiosa, deve vedere insieme sì l'opera delle forze dell'ordine, ma per esempio le associazioni professionali, cioè notai, avvocati, commercialisti. Molti vedono, annusano che sta passando il denaro sporco, è lì che deve scattare il primo allarme. Comunque, dici tu Pico, a te l'intervento. Grazie. In queste tre giornate che sono importanti per Padova. Buongiorno a tutti, apro subito con due battute, perché da un lato ringrazio il direttore per aver detto che il mio intervento è molto atteso, quindi ha aumentato la mia tensione nel parlare davanti a voi, e poi ancora di più ha rivelato subito dell'accordo stretto recentemente con il Ministro dell'Interno, di cui avevo parlato, che gli avevo confiato poco fa. Si è rivelato un ottimo giornalista, perché quando hai un segreto e vuoi che venga rivelato pubblicamente, dillo a un giornalista, no? E questa è la soluzione, però è assolutamente corretto, non c'è, semplicemente una battuta. Vi porto i saluti di tutti i ragazzi rimasti a Palermo e di tutti gli altri volontari del nostro comitato, il comitato Addio Pizzo, e vi ringraziamo veramente tanto per questo invito di oggi. Io sono stato chiamato appunto per portare la nostra testimonianza, la testimonianza della nostra esperienza cittadina, e mi inserisco nel titolo di oggi, dell'appuntamento di oggi, Cittadini si diventa, che è assolutamente corretto e fa perfettamente al caso nostro, perché Chiara poco fa ha ricordato la nostra discussione. La mia generazione a Palermo è diventata cittadina in maniera traumatica, sfortunatamente ha avuto bisogno di un trauma di quel tipo, nel 92, con quelle due stragi ravvicinate che non, nessuno di noi ha più dimenticato e ci hanno segnato. Da allora è partito un percorso di informazione, di autoinformazione, per capire cosa ci circondasse, la realtà che ci circondava, perché se quello che era successo era troppo grosso, troppo inspiegabile per lasciarcelo scivolare addosso. Noi pensiamo che appunto l'esperienza di Dio Pizzo sia nata quando quella generazione del 92 è diventata matura e ha acquisito la piena coscienza di quello che era suo dovere e suo potere fare. La nostra storia, ovviamente, per chi è venuto da Padova in Sicilia, ma anche probabilmente per altri, è nota, sta diventando quasi leggenda da un certo punto di vista, perché tutto inizia una notte in maniera improvvisa, casuale, misteriosa, una notte d'estate fra il 28 e il 29 di giugno del 2004, con un'azione, con un raid. Il giorno dopo Palermo si ritrova piena di tappezzata, con tutto il suo centro invaso di adesivi, piccoli adesivi listati a lutto con una scritta che recita come un cazzotto nello stomaco, una frase, è un messaggio anonimo assolutamente non firmato, un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Da lì parte tutto, e parte tutto con una velocità che lascia quasi in difficoltà inizialmente, perché il giorno dopo tutti i telegiornali aprono con quella notizia, i telegiornali regionali. In procura i PM che si occupano di indagini di mafia e di racket chiamano i carabinieri per capire chi fosse l'autore di quel gesto. Arriva addirittura il prefetto di Palermo che appunto convoca il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui partecipano procuratore generale, comandante provinciale dei carabinieri, comandante della guardia di finanza, i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti. È un qualcosa di grosso. Tutti pensano all'iniziativa, all'idea di un commerciante disperato che non ha trova altro modo di esprimersi, per poi molto più semplicemente scoprire che è l'azione di alcuni ragazzi palermitani. Cosa facciamo noi? Decidiamo di mantenere l'anonimato, però veniamo fuori allo scoperto e spieghiamo alla città il nostro messaggio, il senso di quel messaggio e le ragioni che stanno a monte della nostra azione, prima con un'intervista al Giornale Sicilia, poi con una lettera aperta, pubblicata sulla Repubblica di Palermo, di cui, se mi permettete, vorrei leggervi un breve passaggio, un estratto. Se avrete il piacere di leggerla, è tutta pubblicata integralmente sul nostro sito addiopizzo.org, perché la lettera spiega le nostre ragioni e intenti. Nel 2004 diciamo: oggi si parla sempre meno di mafia, usura e racket, termini che rischiano di cadere in disuso, ma la verità noi siciliani la sappiamo bene. Ogni esercizio commerciale che fa un buon fatturato, se non è amico degli amici, deve pagare il pizzo. Tutti, nessuno escluso. Poco magari, ma tutti versano denaro per essere protetti. Tutto ciò è saputo da tutti i siciliani e quotidianamente dimenticato. Quando giornalmente facciamo la spesa, pensiamo forse che comprandoci semplicemente di che vivere abbiamo appena lasciato denaro anche alla mafia? Certo che no, eppure è così. Perché se una percentuale del guadagno dei commercianti va alla mafia, anche una percentuale dei nostri soldi, seppur minima, va alla mafia. E qua si apre un discorso che può coinvolgere tutti. Se un siciliano vuole dare un giudizio sulla mafia, in una maniera o nell'altra dovrebbe darlo anche su se stesso, sulla sua maniera di stare insieme agli altri. La mafia è innanzitutto una questione che riguarda i siciliani, e noi da siciliani, cioè da membri di quella comunità che crea e subisce la mafia, allora pensiamo: il nostro popolo ha creato e si è sottomesso alla mafia, è perverso, si è fatto schiavo di se stesso. Ma forse in realtà non ci si sente un popolo. Ognuno pensa per sé e nella migliore delle ipotesi ci aspettiamo che lo Stato arresti tutti i boss, come se non fossimo a conoscenza del retroterra di degrado culturale e sociale nel quale vengono incubati i mafiosi che verranno. Concludo. Abbiamo conservato l'anonimato perché non intendiamo capitalizzare alcun consenso per diventare qualcuno, ma soprattutto perché speriamo che siano in tanti a fare la stessa cosa. Per noi non conta che sia un politico, Tizio Caio, a fare questa affermazione di principio, ma una moltitudine di siciliani. La responsabilità della situazione degenerativa in cui tutti noi viviamo non è solo dei commercianti, ma di tutta la società di cui anch'essi fanno parte. Non si può chiedere a un singolo cittadino o commerciante di immolarsi per la causa. Se tutti noi ci ribellassimo e reagissimo, non ci sarebbe più bisogno di eroi o martiri. Ricordate dopo le stragi del 92 la frase che divenne il simbolo della lotta alla mafia? Diceva: le vostre idee cammineranno sulle nostre gambe. In quei mesi sembrò che qualcosa potesse cambiare, ma se ci fossimo riusciti veramente, non saremmo oggi in questa situazione di sudditanza al fenomeno mafioso. Questa fu la nostra prima uscita pubblica. Ora, con questa comunicazione, frutto di passione, frutto di scarsezza di mezzi, frutto di interesse per le proprie cose, abbiamo aperto e creato in città uno spazio per un dibattito pubblico. Abbiamo costretto Palermo a infrangere uno dei suoi tabù, parlare di mafia sì, ma parlare di pizzo. Di mafia se ne parlava, ma mai di questo settore particolare. L'abbiamo fatto in maniera anonima. Alcuni esperti di comunicazione che hanno studiato, si sono rivolti appunto, hanno rivolto la loro attenzione al nostro comitato, hanno giudicato una ingenuità il fatto che noi abbiamo rivelato subito chi fossimo, ovvero ragazzi, laureandi o neolaureati. Dicevano che se avessimo magari aspettato un'altra settimana in più, l'anonimato avrebbe tenuto alta la tensione, avrebbe fatto sì che appunto l'attenzione mediatica diventasse ancora maggiore. Addirittura un semiologo palermitano ha detto che, dichiarando quasi subito chi erano, hanno fatto un errore banale e hanno ucciso il loro mito. Forse è vero, effettivamente così facendo, dicendo chi eravamo, abbiamo privato i media di un mito. I media sono sempre alla ricerca di un qualcosa per tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica, ma noi non volevamo questo, cioè noi non volevamo creare un fuoco di paglia. Il nostro obiettivo invece era dire subito ai ragazzi chi siamo, siamo come voi, nel desiderio di coinvolgerli, altri ragazzi della nostra città, del desiderio di farli sentire integrati e magari di spingerli ad emularci. Soprattutto con quel messaggio abbiamo tirato in ballo un soggetto nella lotta alla mafia, nella lotta nel contrasto al pizzo, che mai era stato prima di allora tirato in ballo, che è quello del consumatore. Nei confronti del pizzo siamo tutti noi coinvolti, se non altro come consumatori. Questa è una delle più grandi innovazioni che ha portato il nostro movimento al contrasto e al campo dell'antimafia. Noi manteniamo l'anonimato, ora vedete voi parlare me, ma se fosse venuto un altro volontario sarebbe stata la stessa identica cosa, perché ciò che a noi interessa è che si diffonda la pratica, il nostro strumento di lavoro. Ora, ci poniamo come obiettivo appunto quello di non incentrarci su chi fa la cosa, ma su appunto cosa propone il comitato e come agisce quotidianamente. Negli anni ci siamo sempre più allargati e oggi possiamo contare sull'apporto di vari soggetti, varie categorie, studenti delle scuole superiori come voi, studenti universitari, commercianti soprattutto, che denunciano sempre di più, ed è una cosa che a Palermo non so come definire, è veramente un atto di rottura epocale. E liberi professionisti, diceva bene prima direttore, a Palermo recentemente la ultima nostra creazione è stata quella di un'associazione che si chiama Professionisti Liberi e incentiva la sensibilizzazione dei liberi professionisti, perché è perfetta l'analisi, ma i notai quando fanno il loro lavoro non vedono, non sentono, perfettamente sanno, però non avvertono l'urgenza dell'etica appunto del loro lavoro, notai, i giornalisti stessi, gli avvocati, gli ingegneri, tutte le categorie professionali. Abbiamo raccolto tutto questo movimento, una macchina meravigliosa, di persone appunto che tengono al loro territorio e avvertono quel senso di responsabilità necessaria appunto in tutto quello che facciamo quotidianamente. Ora, noi ogni giorno ci proponiamo di trovare nuove forme di lotta alla mafia e come facciamo? Parallelamente portiamo avanti un discorso di educazione popolare che deve essere collettivo al fine di un raggiungimento dell'obiettivo di liberazione, ma che deve essere autoliberazione dalla mafia. Noi ci proponiamo appunto questo processo quotidiano di conoscenza del fenomeno, perché a parole siamo tutti bravi a professarci antimafia, ma è necessario prima conoscere un fenomeno, prima di agirci, altrimenti la tua azione sarà cieca. In tanti ricordiamo come se fosse, no, ricordiamo doverosamente la figura di Giovanni Falcone. Purtroppo, e questa è una caratteristica negativa, ricordiamo le sue parole spesso come una formuletta, o nella commemorazione del 23 maggio o a ogni occasione pubblica. Capita di avere il relatore particolarmente dotato nell'ars retorica che usa la frase di Falcone come fenomeno umano per mostrare quanto è erudito, per mostrare quanto è bravo. Ora, noi cerchiamo ogni giorno di prendere questo insegnamento e di calarlo nella nostra azione quotidiana, non lasciarlo in mano ai buoni oratori. Questo e tanti altri insegnamenti, come quello anche di Borsellino, altra figura giustamente ricordata, ma di cui si prendono solo citazioni. Quando Borsellino, che dice, soprattutto oggi, cioè oggi in questo periodo, lo ricordo, Borsellino diceva: criticare è legittimo, sto parafrasando, non sto ripetendo la frase a memoria, criticare è legittimo, ma le istituzioni sono sacre. Voi potete dire il politico X ha sbagliato, ma la politica è sacra, lo Stato è sacro. Si può dire il Presidente della Repubblica in carica ha sbagliato, ma non la Presidenza della Repubblica. L'istituzione è ciò che ci unisce, il Parlamento è una dei bersagli preferiti oggi da quell'antipolitica di cui si parlava in precedenza e che è deleteri. Ma se noi vogliamo che gli insegnamenti di quelle persone che sono morte nell'esercizio del loro lavoro in quella maniera tragica non siano vani, facciamoli valere in tutta la loro carica e la loro potenza. Dicevo, noi cerchiamo ogni giorno di coinvolgere. Come però? Ci siamo resi conto come palermitani, come siciliani, che a nessuno può essere chiesto uno sforzo sovraumano, un'esposizione eccessiva. E allora abbiamo inventato quello strumento, il consumo critico anti-racket, che si basa su azioni semplici, quotidiane, elementari, non rischiose, anonime, che messe tutte insieme permettono di raggiungere un risultato di notevole consistenza. Noi diciamo ai palermitani: i tuoi acquisti quotidiani tu li fai lo stesso, che ti costa farli da uno che ha denunciato il pizzo o che si impegna a non pagarlo, piuttosto che da un altro che tu non sai come sia? Tu premia il coraggio del primo, e là questo è il potere di ognuno di noi, questo è il potere su cui spesso non si ragiona, però alla fine è straordinario. Mi ricordo appunto una discussione fra di noi, un altro volontario che mi aprì gli occhi, mi aprì un mondo ai primi incontri, quando mi disse: ma se tu non puoi nemmeno immaginare il coraggio che dai a un commerciante che magari ha denunciato, quando vai da lui e gli dici, dopo che hai comprato quello che devi comprare: sa, io sono venuto da lei perché ammiro quello che ha fatto. Lui ha detto: tu a quell'uomo dai una forza, perché quotidianamente lui ha delle spinte contrarie, cioè ha tutta una società, e ovviamente prendiamole con con le pinze, questo termine tutta, perché non è in maniera assoluta, tutta la società palermitana che invece rema dall'altra parte, un ambiente che lo circonda e che spesso purtroppo gli dice, gli fa credere di aver sbagliato. Bisogna continuamente studiare per capire cosa sia la mafia, perché si può, allora, quotidianamente innanzitutto noi vediamo parlare, dare mille definizioni di mafia, e là c'è un pericolo gravissimo, perché se mafia è tutto, poi va a finire che mafia è niente, no? Se mafia è l'atteggiamento del bulletto di quartiere, o se mafia è la connivenza ai massimi livelli. Ora io vi invito ad andare a fare la lettura appunto di qualche opera, di studi del Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato, animato da Umberto Santino e Anna Puglisi, che sono due dei massimi studiosi sul fenomeno e hanno perfettamente inquadrato la cosa. Vado subito alla conclusione perché mi rendo conto che non voglio monopolizzare l'attenzione. Vi invito ancora una volta a riflettere sulla responsabilità collettiva di ognuno di noi di fronte a fenomeni così diffusi come quello mafioso e nel nostro caso come quello del pizzo. Come si può agire? Abbiamo avuto un gruppo di ragazzi qui sul palco e giù che sono venuti da noi in Sicilia all'interno di una costola di Addio Pizzo, un'associazione appunto che si chiama Addio Pizzo Travel, che organizza questi viaggi che sono positivi per entrambi, perché il ringraziamento che noi abbiamo fatto ai ragazzi è infinito, perché loro col loro viaggio hanno dato forza a quei commercianti che fanno parte della lista di Addio Pizzo, facendo i loro consumi durante il viaggio presso quelle attività commerciali. Dall'altra parte noi abbiamo dato loro la nostra esperienza, perché a proposito del rapporto fra nord e sud, cioè le differenze fra nord e sud, quello che possiamo dare noi siciliani è la nostra esperienza di resistenza alla mafia, che ci siamo costruiti per aver subito per decenni, avuto presente nel territorio questo fenomeno. Ma la cosa fondamentale che teniamo a sottolineare è che da sempre il popolo siciliano, pur avendo creato la mafia, ha messo in pratica azioni di contrasto al fenomeno. A Palermo voglio concludere in maniera positiva, voglio dire che non solo grazie a noi, ma in questi ultimi anni si sta avviando un processo che coinvolge una fetta sempre più grande della città, che avverte, come vi dicevo, il senso della sua responsabilità. Ci speriamo nei prossimi anni, nei prossimi 3 anni, ci siamo posti come obiettivo di coinvolgere sempre più autori, sempre più soggetti in questo processo di cambiamento e di liberazione, che comunque, non neghiamoci, è ancora in corso e ha ancora molto da fare. Il processo di liberazione però non verrà mai dall'esterno, non verrà mai necessariamente dallo Stato, o solo dallo Stato, ma deve essere la società stessa, la collettività che vuole questo cambiamento, questa liberazione, a prendersela. La nostra esperienza racconta questo. Noi non vogliamo insegnare niente a nessuno, non possiamo. Noi suggeriamo solo un metodo che siamo certi sia l'unico possibile, sia l'unico efficace in un'azione di questo tipo. Rivolgo a voi l'ultimo invito. Non vi viene chiesto nulla di più di ciò che, come dicevo prima, è in vostro potere fare. Se voi non aveste lo strumento per agire, allora sareste giustificati nella vostra impotenza. Però diventa grave la cosa quando qualcuno prima di voi concepisce lo strumento, voi avete il potere e non lo fate, perché innanzitutto il danno lo fate verso gli altri, ma principalmente verso se stessi lo si fa. Noi da Addio Pizzo diciamo questo: non lo facciamo per gli altri, io lo faccio per me, perché da un lato devo liberare quel trauma del 92 e dall'altro voglio vivere in un ambiente verso cui io stesso mi sento responsabile. né più né meno, è un piccolo quotidiano atto di egoismo, quello di noi di Addio Pizzo, quindi non meritiamo tutti questi complimenti oltremodo. Grazie. Pico di Trapani, volontario del comitato Addio Pizzo di Palermo, e adesso la voce, l'ospite principale adesso di questa mattina. Adesso passo la parola a Don Ciotti. E Don Luigi è un, non ha bisogno di presentazioni. Credo che sia una delle più belle testimonianze di prete che ho visto nella mia vita, che ormai non è più brevissima. E quindi io gli do la parola emozionato, perché tutte le volte che si parla di Don Ciotti, vabbè, bisogna starsi in piedi, bisogna... niente, volevo solo dire una cosa. Libera non è che vive, cioè vive con l'aiuto di tutti noi, giusto? Adesso non vorrei fare il fundraising qui dal palco, però vorrei ricordare ai ragazzi che Libera va sostenuta non solo con gli applausi, non solo con l'adesione anche alle cose che ci dirà Don Ciotti, ma bisogna anche aiutarla a vivere, a condurre le sue battaglie anche materialmente, ricordandosi magari di sacrificare qualche birretta in più o in meno, meglio, per aiutare Libera. Beh, buongiorno a tutti. Io devo dire subito una cosa molto importante, che il problema non sono le mafie. Per piacere, il problema non sono le mafie, il problema siamo noi. Possibile che milioni di cittadini italiani da 400 anni siamo spettatori della presenza della camorra nel nostro paese e continuiamo a parlare di camorra da 400 anni. E da 200 anni che noi parliamo di Cosa Nostra, ed oltre 100 anni che parliamo dell'andrangheta calabrese. Questo è il problema, cari amici. Questo è il problema. E c'è una domanda a cui rispondere: come mai da 400 anni noi parliamo di camorra nel nostro paese? E la camorra continua ad esserci. E vi prego, nonostante, e questo ci tengo a sottolinearlo con forza, la gratitudine e per me anche la riconoscenza, il grande affetto al lavoro di tanti magistrati e delle forze di polizia e di quei segmenti delle istituzioni che non si sono mai sottratte a una coerenza e a un impegno. Però il problema, signori, non sono le mafie, il problema siamo noi. Il problema non è la corruzione, certo ci sono i corrotti, ma dove c'è una società che deve assumersi la propria parte di responsabilità. E voi siete testimoni di questa parte di società. Abbiamo sentito Addio Pizzo, la meraviglia nata in quella notte, ponendo stupori interrogativi, ma poi anche la concretezza in quel meraviglioso territorio, perché la Sicilia è una terra meravigliosa. E così tutte le altre parti del nostro paese. Quindi noi siamo per sottolineare le cose belle, importanti, positive. Avviso pubblico che è una storia di amministratori che dicono con chiarezza da che parte si deve stare e stanno, e che dimostrano una politica pulita, trasparente, di contenuto, mentre ce ne sono altri dall'altra parte che fanno altri giochi, altri interessi. Allora vi prego, il problema sono certo anche le mafie, la violenza, le varie forme di illegalità, di corruzione, ma il problema siamo, io credo, innanzitutto noi. Allora, guardate, c'è un furto delle parole, c'è un grande furto delle parole nel nostro paese, perché ci sono certe parole che oggi vengono rapite, svuotate della loro sostanza, della loro storia, e rimesse in circolazione alcune parole con abiti nuovi che non sono i loro, in contesti che non sono i loro. Perché a parlare di legalità ne parlano tutti, a parlare di responsabilità ne parlano tutti, a parlare di giustizia e di pace, ne parlano tutti, per non mi par dire poi di solidarietà, ne parlano tutti. Però noi abbiamo bisogno che nessuno svuoti la legalità del suo valore, del suo significato, perché a parlare di legalità oggi innanzitutto sono quelli che la calpestano tutti i giorni, la senti sulla bocca di tutti, c'è un furto delle parole, e noi qui vogliamo fare in modo che nessuno ce li svuoti del loro vero significato, la giustizia, la dignità umana, la democrazia. Abbiamo bisogno e dobbiamo impegnarci per non permettere l'abuso di queste parole. Difendiamole, vi prego, dai manipolatori e dai seduttori che le usano, le celebrano. Abbiamo bisogno che legalità sia legalità, giustizia giustizia, dignità umana, democrazia. Ecco il furto delle parole, e una di queste parole è società civile. Voi siete ragazzi svegli e intelligenti, e mi fa piacere incontrarvi qui nella mia terra, perché io sono un veneto, nato sulle montagne a Pieve di Cadore, immigrato poi con la mia famiglia prima Napoli, poi Torino. Ebbene, orgoglioso di questa terra, che io me la porto dentro, è la mia terra, è la nostra terra. E con la stessa forza, con lo stesso affetto di quel furto di parole, vi devo dire, per la stima che mi porta qui nei vostri riguardi, perché siete ragazzi svegli e intelligenti, che c'è una parola sospetta, che è proprio la società civile. Perché è un'espressione non solo stanca, ma sospetta, usata per designare realtà di nome, ma non di fatto. In più di un'occasione sono espressioni della società civile, della società civile si sono rivelate espressioni di una società a responsabilità limitata. Sì, se no non saremmo qui da 400 anni a parlare di Camorra, abbiate pazienza. Non saremo qui. E quindi espressioni che in tante occasioni si sono rivelate espressioni di una società a responsabilità limitata. Allora io credo, e lo dico qui con gioia, a Padova, nella festa di avviso pubblico, la quarta festa, se crediamo che una responsabilità non debba avere scadenze, dobbiamo parlare non più di società civile, ma di società responsabile. O meglio, di società civile e responsabile. Perché il vero problema non è solo sbandierare che noi siamo civili, certo che siamo civili, ma ci vuole quel morso di più, quello scatto in più di una società civile e responsabile. E voi avete fatto bene a richiamare con forza oggi, certo, il tema della legalità, ma nella lucidità che prima di parlare di legalità, che non è neppure un valore e non può essere l'obiettivo, che è un altro l'obiettivo, la legalità è lo strumento, il mezzo per raggiungere un altro obiettivo, ma la legalità importante, perché il rispetto delle regole è importante dentro i nostri contesti e dentro le nostre realtà, è il mezzo e lo strumento per raggiungere l'obiettivo della giustizia, ma per raggiungere questo obiettivo c'è bisogno di assunzione di responsabilità. E quindi è molto importante questo richiamo a non essere cittadini a intermittenza. C'è troppe persone, no? Che emotivamente di fronte a alcune vicende si fa tutto, il contrario di tutto. Noi dobbiamo dare continuità al nostro essere cittadini in una società civile dove col nostro contributo possiamo definirla una società civile e responsabile. Siamo chiamati a assumerci fino in fondo la nostra parte di responsabilità. È un problema di democrazia. ma lo dirò fra un istante, ringraziandovi. Ecco perché sono partito da dire, ma perché da tanti anni noi continuiamo e sono lì, nonostante l'impegno immenso. E lo vediamo tutti i giorni, le grandi operazioni, anche i grandi sacrifici che magistrati, forze di polizia, segmenti delle istituzioni stanno facendo. Ci tengo, ragazzi, a sottolineare questa positività. Come le belle realtà, viso pubblico è una bella realtà, a Dio Pizzo è una meravigliosa realtà. Libera, che io qui rappresento, sono 1600 associazioni nazionali di mondi diversi che si sono messi insieme, dagli scout della GESCI alla Chiesa Valdese, a Lega Ambiente all'Arci, mondi laici, movimenti di anziani e di giovani. È Libera che oggi è presente in tutta Europa, ha trovato a Mosca, come l'ha trovata a Lisbona, perché le mafie si sono presentate negli altri territori, allora università, scuole, associazioni, si è creata una rete dove si vuole essere una società civile e responsabile, non cittadini a intermittenza, non persone che si commuovono, perché certe volte ci si commuove. Non basta commuoversi, bisogna muoversi di più tutti. E allora credo che si possa dire, ve lo dico come sono capace, vi chiedo scusa, che il problema più grave oggi non è solo chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare. Questo è il problema. Questo è il problema di quanti guardano e lasciano fare. E se c'è una drammatica povertà, io la chiamo povertà e la delega. E il dire che tocca sempre agli altri fare. Certo, gli altri sono chiamati, ognuno, a fare la propria parte. Allora, se si vuole cambiare il paese, non basta prendersela genericamente con la politica, a cui che dobbiamo chiedere conto fino in fondo, sia ben chiaro, ma non basta prendersela genericamente con la politica, ma diventare capaci di guardare le responsabilità delle altre parti della società. Segmento del mondo qui richiamato di professionisti che si sono messi al servizio. Segmenti di questo mondo, quindi, di imprenditori che hanno fatto affari e continuano a fare affari dentro questo, di tanti cittadini che hanno delegato di fatto, si sono moltiplicati dell'80% in più i premi della bontà, i riconoscimenti, le cittadinanze onorarie di tutto nel nostro paese. Dare una patacca, dire bravo, certo che ci vuole anche riconoscimento rispetto, ed è una cosa giusta, quanti sono fortemente impegnati, ma quanti sono quelli che si scaricano la coscienza dicendo bravi agli altri e non assumendosi fino in fondo di più la loro parte di responsabilità. E allora in questo senso io credo è la meraviglia di essere qui insieme anche per dire di questa drammatica povertà, che è anche la rassegnazione, la delega, la sfiducia, il dire intanto le cose non cambieranno mai. Certo, noi prendiamo coscienza di una verità, ma siamo qui per assumerci di più la nostra parte di responsabilità. E allora avete fatto bene, legalità e responsabilità, cittadinanza, essere cittadini. In questo senso io credo che la strada dell'impegno è scandita da tre parole che voi ben conoscete. La strada è in salita, non è semplice e non è facile. Ma quelle testimonianze positive dimostrano che è possibile. Che è possibile. Quando siete andati a trovare Dio Pizzo avete visto quella concretezza, quella trovata di quella notte che è diventato un segno di speranza e di cambiamento. È possibile. Quando penso, quando Libera raccolse 1 milione di firme nel 1996 per chiedere la confisca e uso sociale di beni, pur con le ombre che continuano ad esserci su quei meccanismi, è possibile, perché cooperative se ne sono aperte tra mille difficoltà sui beni confiscati ai grandi boss, e quell'olio, quella pasta, quel vino, con quel marchietto Libera Terra, dalle terre liberate dalle mafie, sono un segno che è possibile, che è possibile. Difficile, complesso. Quest'estate voi sapete che non c'è bene confiscato che non sia stato bruciato, distrutto e fatto saltare in aria. Dalla Puglia alla Sicilia in più luoghi, dalla Calabria al Lazio. Ma la meraviglia di 6.000 di voi che siete partiti coi campi di volontariato per dare un sostegno a quei giovani delle cooperative, per non lasciarle sole. È la meraviglia del Presidente della Repubblica che ha voluto che il rinfresco con il corpo diplomatico e con le massime autorità dello Stato per il 2 giugno, festo della Repubblica, fosse nella sobrietà, fatto esclusivamente con i prodotti che arrivano da quelle terre, con le ultime mozzarelle che arrivavano da Castel Volturno. Segno che è possibile, segno che è possibile, e quindi il segno qui dentro che è possibile. Ma attenzione, dall'altra parte la forza criminale in tutte le sue espressioni è forte. Le mafie oggi fanno da banca alle piccole e medie imprese in difficoltà, hanno denaro. Qualcuno dice: ma nel Veneto non c'è, ma nel Veneto c'è traffico di sostanze stupefacenti, e tu hai ricordato tutti quei morti. Quello è un mercato di mafia. E altre forme di sfruttamento sono mercati di mafia, in ultima analisi, direttamente e indirettamente. Allora questo deve diventare per noi un grande impegno. Certo, la strada è in salita e tre parole la scandiscono, per noi importante. La prima è certamente la responsabilità individuale, che deve diventare corresponsabilità collettiva. Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi, dell'assunzione da parte di noi della nostra parte di responsabilità, che comincia dalle piccole cose, voi lo sapete, e voi lo sapete molto bene. Responsabilità e conoscenza sono le due anime del processo formativo. La responsabilità ci chiama in causa e la conoscenza ci invita a voler conoscere. Di qui l'importanza di formarci per essere cittadini. E questo è un impegno continuo in un'educazione al bene comune, è una conquista quotidiana che comincia dalla voglia di conoscere e dalla voglia di sconfiggere un grave peccato oggi, che è il peccato del sapere, cioè la mancanza di profondità. C'è troppo sapere di seconda mano per sentito dire. Allora detto, sì, non basta. Abbiamo bisogno di profondità. Allora vi prego, responsabilità e conoscenza sono le due anime di un percorso. Abbiamo bisogno di conoscere, di scendere in profondità per diventare persone più responsabili e per condividere questa corresponsabilità un cambiamento. La seconda parola può sembrare scontata, ma non è: la continuità. Perché a volte all'indomani di molte vicende si è fatto tante cose nel nostro paese. Poi ci si perde, poi uffa, continuiamo a parlare sempre degli stessi temi, ma perché ci ritorniamo sopra? E invece c'è una puntualità. Chiedetelo ai vostri genitori, ai vostri insegnanti. La storia del nostro paese è una storia che vede dei processi che durano 10 anni e poi si passa ad altro. Voi ricordate quando 30 anni fa sulla droga si faceva tutto e il contrario di tutto, nelle scuole, percorsi, progetti. E adesso volto scemo. Poi l'AIDS. Noi l'abbiamo vissuto, quella storia, pianto di quei ragazzi, migliaia di scuole. Io dimenticherò mai che 2 mesi prima della strage di Capaci ero con Giovanni Falcone a Gorizia, in un incontro di sindacati di polizia, a parlare delle dipendenze. Lui, come ottimo giurista, puntuale, attento, io la prevenzione, i percorsi educativi e le accoglienze. Ci troveremo anni poi, 2 mesi dopo, la strage di Capaci. Finirà poco dopo una stagione sulla droga, si comincia l'AIDS, tutto contro di tutto. E poi si è aperta un'altra stagione, ogni 10 anni ciclico. Dimenticando che ci vuole una continuità di percorsi, di prevenzione, di informazione, di progettualità. Non è che improvvisamente si abbandona e si è aperta la stagione sul tema della sicurezza. E ora è la legalità. Non posso dimenticare i 9 giornalisti uccisi perché vivevano con serietà la loro professione. Giancarlo Siani, giornalista con la schiena dritta. E quello che nel Vangelo, lasciatemi, il Vangelo raccomanda la paressia, che vuol dire il parlare chiaro, che è il contrario dell'ipocrisia. E questa è una stagione in cui noi dobbiamo parlare chiaro. Non possiamo fare l'occhiolino a chi fa comodo, ma dobbiamo portare il nostro contributo forte per un cambiamento. Allora, in questo senso, la responsabilità è vivere in modo generoso il proprio ruolo di cittadini. Un cittadino deve sentirsi una persona responsabile. Vuol dire anche, ragazzi, ma voi questo lo fate. Responsabilità vuol dire sapere che le ingiustizie poggiano su complicità e silenzi. Vuol dire responsabilità non dimenticarci di sapere che le ingiustizie si avvantaggiano anche degli ostacoli di una legalità formale scritta più nei codici che nelle coscienze. La legalità deve essere scritta dentro, qui, nelle nostre coscienze. Dicevo che è un problema di democrazia e voi me lo insegnate. E con gli insegnanti di diritto e non solo ne ho incontrate 2. Voi chissà quante volte avete approfondito tutto questo, continuate a farlo. Perché è un problema di democrazia. Perché la democrazia si fonda su 2 doni. E quali sono i 2 doni della democrazia? Sono la dignità umana e la giustizia. ma c'è bisogno di una terza gamba per reggere la democrazia nel paese, che si chiama responsabilità. La spina dorsale della nostra democrazia è la responsabilità, è quella che chiediamo allo Stato, alle istituzioni, ma voi me lo insegnate, è quella che dobbiamo chiedere a ciascuno di noi. Il cambiamento ha bisogno dell'assunzione di maggiore responsabilità anche nostra, che ripeto comincia dalle piccole cose, dalla voglia di conoscere, dalla voglia di mettersi in gioco in un certo modo. La democrazia si fonda sulla responsabilità, ma la spina dorsale anche della nostra Costituzione è la responsabilità, i nostri doveri e anche i nostri diritti. E voi sapete che responsabile, il valore etimologico vuol dire rispondere, responsabile è chi risponde, e si comincia a rispondere innanzitutto alla propria coscienza, chiedermi io che cosa faccio, qual è il mio contributo per un cambiamento. La speranza ha bisogno che ci mettiamo in gioco noi, ha bisogno che anche noi diventiamo costruttori di questa speranza. La democrazia si fonda anche sull'inquietudine delle coscienze, l'inquietudine delle nostre coscienze, la voglia di conoscere, di sapere, il coraggio del dubbio. Se trovate qualcuno che ha capito tutto, che sa tutto su questi problemi, salutatelo personalmente e cambiate strada. Siamo tutti piccoli, con la voglia di conoscere, di interrogarci. Ti sembra di avere capito una cosa, improvvisamente ne scopri un'altra. Ci sia questa sana curiosità dentro di noi, il coraggio del dubbio, non chiuderci nelle nostre certezze. E vi prego, voi siete meravigliosi, poi oggi con le nuove tecnologie avete una capacità impressionante. Non disattivate mai, non disattivare mai il radar dell'intelligenza critica e autocritica, cioè la capacità di guardarci dentro, di guardare anche le nostre criticità, di essere una coscienza critica rispetto al contesto, ma anche propositiva. Non basta la denuncia fine a se stessa, non basta dire le cose non vanno, che schifo. Dobbiamo costruire, e costruire siamo chiamati a portare il nostro contributo e fare la nostra parte. Alla cattiva politica, e qui è stato ben ricordato, non si risponde con la fuga dalla responsabilità, ma assumendo più responsabilità. Perché l'antipolitica è una scorciatoia accattivante per chi ignora che il buon governo nasce anche dal modo in cui i cittadini concorrono alla gestione e alla crescita del bene comune. Allora tocca a noi fare la nostra parte. Il che non vuol dire che io denuncio le cose che non vanno. In modo serio, attento, documentato, mai, mai fazioso. È una cosa, Antonio, che io mi permetto di dire, che la storia ci ha consegnato, non dimenticando questa attenzione propositiva che dobbiamo costruire. Questi ragazzi sono meravigliosi, quando loro trovano dei punti di riferimento veri, coerenti, credibili, esplodono di positività. Voi siete i primi a toccarlo con mano. Ma c'è un'amarezza, un'amara realtà, che la storia ci dice che mentre può e deve esistere una politica senza mafie, non possono esistere mafie senza il concorso e la collusione della politica. Perché una delle grandi forze delle mafie sta in quella zona grigia, fatta di parti del corpo sociale, di segmenti imprenditoriali che si mettono a quel servizio e anche di professionisti, eccetera, ma sono piccoli segmenti, che non vuole dimenticare la grandezza e la meraviglia di altri migliaia che non fanno notizia, che si impegnano, che ce la mettono tutta, che la portano avanti in un certo modo. ma quando noi, le mafie non potrebbero esistere se non hanno collusioni di forme diverse. E la dimostrazione è l'operazione dell'altro giorno, ancora ieri a Chivasso, della Procura di Torino, l'operazione Minotauro in Piemonte, tutto quello che è successo a Milano. Ma guardiamo anche quello che è successo nel Lazio, che ha coinvolto la politica, a Reggio Calabria, dove ero l'altro giorno, proprio in un contesto certamente non semplice e non facile. Non siamo qui per giudicare nessuno. Siamo qui nella verità per chiederci quel conoscere, per poi dire ci rimettiamo noi le nostre, anche noi siamo capaci a fare la nostra parte. Io mi sono sempre stupito di chi si è stupito, però, perché non posso dimenticare quando il 7 agosto dell'82 Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, che lottò 7 anni come carabiniere nella lotta al terrorismo, poi arriverà a Palermo dopo delle stragi che avevano visto morti, altri morti. Lui starà 4 mesi che lo ammazzeranno, però in quella intervista che fece consegnò allora, nel 7 agosto dell'82, consegnò 2 scomode verità, che io le ripeto, perché quando qualcuno parla delle mafie al nord lo dice, ma sembrava che no, sono cose che voi già sapete, che altri meglio di me qui vi hanno detto. Io le affido a Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ha perso la vita, ma lui aveva intuito bene, è una storia che aveva già denunciato altri. Ma noi oggi non dimentichiamo, perché sono 30 anni dalla sua morte anche, quando le 2 scomode verità, la prima, chissà quante volte l'avete sentito, lui disse questo in quell'intervista: la mafia ormai sta nelle maggiori città italiane, dove ha fatto grossi investimenti edilizi, commerciali e magari industriali. A me interessa conoscere questa accumulazione primitiva del capitale mafioso, questa fase di riciclaggio del denaro mafioso. E la seconda grande verità scomoda: ho capito una cosa semplice ma decisiva. Gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi, caramente pagati dai cittadini, non sono altro che elementari diritti dei cittadini. Assicuriamoli, togliamoli questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati. Allora la speranza ha il volto della possibilità. La speranza è la tensione della vita che si deve fare progetto. La speranza è non dimenticare che ogni esistenza, se trova delle opportunità, è iscritta nel registro del possibile. La speranza vuol dire politiche sociali. La speranza vuol dire lavoro. La speranza vuol dire politiche per la famiglia. La speranza vuol dire prendere coscienza che l'Italia è il paese che ha la maggiore dispersione scolastica d'Europa. La speranza vuol dire creare quelle opportunità, quei servizi. E allora qui io devo dire, forza amici, io non sono un economista, lo dico con una certa fatica, ma siccome da 47 anni vivo nel gruppo Abele, con i poveri, con gli ultimi, le accoglienze, il lavoro sulla tratta, la prostituzione, tu ci sei vissuto per anni, e qui lì continua tutto, qui, tutti i giorni, dormitori, le unità di strada, che di notte escono per raggiungere quelle ragazze usate, sfruttate, nel giorno della prostituzione. L'altro giorno ci hanno portato una ragazza che gli avevano fatto lo scalpo per punirla perché cercava di uscire dal circuito criminale che la sfrutta. La Procura di Torino ha fatto un'indagine sull'accattonaggio, e sono arrivati a noi una ragazzina che gli avevano tagliato il braccio per mandarla a fare quello. Abbiamo poco fa celebrato, sarà 15 giorni fa, la trigesima del procuratore capo della Repubblica, essere di Trieste, poi procuratore capo della Repubblica di Brescia. Siamo stati a Trieste a ricordarlo, dopo un mese ho celebrato l'Eucaristia, il dottor Paci, e ti ricordi quando criticato, accusato di farsi protagonista, denunciava il traffico degli organi e il traffico degli esseri umani, perché succedevano delle cose a quel confine, e poi un'indagine seria aveva permesso di dimostrare che lì passavano queste rotte, quindi su questi nostri sentieri e su queste nostre strade. Allora dobbiamo sentire forte quel bisogno di conoscenza, di profondità, e aveva ragione proprio, noi dobbiamo sottrarle le persone. Allora bisogna che la politica faccia la sua parte, e noi lo chiediamo con forza, con umiltà, ma senza sconti per nessuno. Dicevo, non sono un economista, io sono convinto che l'economia ha le sue leggi e i suoi saperi, ma se non servono a migliorare le condizioni di vita delle persone, sono leggi e saperi inutili. E oggi tutte le fasce deboli sono in difficoltà, progetti che non ci sono più, c'è crisi, ma pagare il prezzo sono ancora una volta, certo, attraversa tutta la società. Io sono riconoscente perché l'Italia ha recuperato un volto pulito in giro per il mondo che si era perso. E quindi gratitudine per alcuni provvedimenti di grande positività. Ma oggi bisogna dare uno scatto in un'altra direzione, perché a pagare questo prezzo, beh, è trasversale, ma ancora di più lo pagano, ma soprattutto i giochi criminali mafiosi trovano terreno fertile ancora di più per i loro affari, per i loro scopi, per le loro strade. E l'altra persona che voglio ricordare qui è proprio Paolo Borsellino. Lo voglio ricordare perché nel momento di massimo successo, scusate la parola, nel contrasto a Cosa Nostra, grazie al loro lavoro, al lavoro di tanti magistrati, forze di polizia, a gente che ha rischiato, ieri a Milano con me nell'incontro c'era il questore attuale di Piacenza, Germanà, che ti ricordi che si è salvato dall'attentato, è stato anche molto simpatico come l'ha presentato, no? Uomo che ha rischiato la vita quando a Trapani lanciarono di ammazzarlo. Ed eravamo lì, ieri, proprio a rivivere dei momenti di responsabilità e di impegno. Ebbene. Ebbene, io non posso dimenticare che nel massimo processo, il maxi processo, migliaia di arresti, centinaia di persone alla sbarra, i giornali che uscivano con i titoli tagliata alla testa alla piovra. Era una stagione nuova, segnali nuovi, importanti. Sembrava di essere arrivato su quella soglia di poter rimettere su una linea di normalità anche la lotta alla criminalità, non l'eccezionalità. Ecco, un lavoro immane, immane, che questo paese non può dimenticare. Ma ci fu quest'uomo che in quel momento di euforia di tutti, perché c'era quella positività, quella forza, dirà queste parole che ho mai dimenticato e che mi sembra dobbiamo ridircele oggi, oggi. E questa festa, quarta festa nazionale di avviso pubblico, è anche il luogo di una città come Padova per ribadire stima e riconoscenza e sottolineare le positività innanzitutto, che diventano segno che è possibile di speranza, ma anche la lucidità di una situazione. Guai se non l'abbiamo lucida. E Paolo Borsellino, in quel momento che tutti scrivevano, dicevano, annunciavano, lui disse queste parole: pericolosissima illusione. Non sono consentiti allentamenti di impegno, di tensione, non perniciose illusioni, di cessata pericolosità, solo in presenza di un calo statistico degli episodi di violenza, peraltro niente affatto scomparsi. Perniciose illusioni. Io credo che in questo momento storico, nel quadro che c'è, si debba ripetere queste parole. Attenzione. E la dimostrazione di tutto questo, ragazzi, voi siete intelligentissimi, è che la legge sulla corruzione non riesce a passare nella radicalità che dovrebbe passare, cioè i criteri che l'Unione Europea ha posto nel 1999, pensate, 1999, con la Convenzione di Strasburgo. Gratitudine a questo governo che l'ha presentata, l'ha difesa con forza, ma in Commissione è stata modificata, in Aula viene ancora modificata, e viene fuori certamente un segnale politico positivo che si è mosso in una direzione, ma delle lacune impressionanti, impressionanti. Libera raccolse 1.200.000 cartoline insieme ad avviso pubblico che abbiamo consegnato a marzo l'anno scorso al Capo dello Stato, 1.200.000 cittadini che hanno detto ci sia chiarezza nel contrasto alla corruzione, che è una di quelle dimensioni che fa da viatico al gioco criminale e al gioco delle mafie. Perniciose illusioni. La legge sul gioco d'azzardo, quando il bravo ministro Balduzzi, che io non conosco, ha ascoltato tante realtà, e questo è stato molto importante, hanno modificato alcuni passaggi per renderla, ecco, più incisiva. Poi è andata in commissione, è andata in aula, è stata modificata, hanno vinto ancora le lobby e i poteri forti. È stata spolpata. Perfino quelle macchinette che proprio uno dice mettiamole un po' distante, non da luoghi sensibili, 500 metri, poi il mercato, no, mettiamole 200 metri, poi hanno tolto anche i metri, ma non è tanto questo, capite? Capite che se le leggi non sono fatte proprio per il servizio per il bene comune, devono essere pulite, trasparenti, radicali, libere, libere. È questo che noi dobbiamo gridare, amando e sostenendo quanti si impegnano nel ruolo del servizio della politica come servizio per il bene comune, ma anche chiedendo conto a quanti frenano un cambiamento. Allora forza, tocca anche a noi umilmente portare la nostra parte. La speranza ha bisogno di ciascuno di noi. È la speranza o è di tutti o non è speranza. Dobbiamo darci da fare perché sia veramente, ma veramente non solo nelle parole ma nei fatti di tutti. E mi auguro che si cresca insieme, vi prego, una società civile e responsabile nella quale ci educhiamo a riconoscerci uguali come cittadini e diversi come persone. Uguali come cittadini e certamente diversi come persone. E la diversità è il sale della vita. E dobbiamo fare in modo che la diversità non diventi mai, mai avversità. L'ultima parola la dico sulla Chiesa. La dico sulla Chiesa. Io con tutti i miei limiti e le mie fragilità ne faccio parte. Ce la metto tutta. Quante mie difficoltà, come tutti, insomma, e sono qui, ma con grande gioia, perché troverete qualcuno che dice, ma è mica un impegno che riguarda anche i preti, eccetera, questo. Wow! Un cristiano, non voglio escludere nessuno, vi prego, però lasciatemelo dire con chiarezza. È chiamato alla testimonianza cristiana, certo, ma siccome non vive per aria, ma vive in una città, in un territorio, in un paese, è chiamato anche alla responsabilità civile. E la testimonianza cristiana e la responsabilità civile sono il duplice impegno con il quale il cristiano si fa compagno di strada di quanti sono impegnati per questo cambiamento. E mi fa piacere che proprio i vescovi italiani, nel documento Educare la legalità del 1991, c'è un passaggio che dice: il cristiano non può accontentarsi di enunciare l'ideale e di affermare i principi generali, deve entrare nella storia e affrontarla nella sua complessità. E già, perché su i massimi sistemi, sui principi generali ci siamo tutti. Dobbiamo sporcarci queste mani, dobbiamo sentire forte che il cambiamento bisogna veramente ciascuno di noi, e dove viene messa a rischio la dignità delle persone, dove viene umiliato, soffocato un progetto di giustizia, la Chiesa ha il dovere di parlare e di intervenire. E quando il Papa nella Valle dei Templi gridò delle parole chiare contro Cosa Nostra, era la prima volta, per dire con sostanza che i giochi mafiosi sono incompatibili con il Vangelo, noi diciamo anche corruzione, forme di illegalità sono incompatibili con il Vangelo. E vi prego, non si vada in chiesa per far tanti baci, bacetti alla Madonna, a tutti i santi, ma veramente per sporcarci concretamente le mani, perché Gesù Cristo ha parlato di fame e sete di giustizia. E un caro amico che non c'è più, un grande vescovo, chiamava profondamente i giovani, un giorno disse: la Chiesa è per il mondo, non per se stessa. È vero, sapete, noi e chi ha quei riferimenti, senza escludere nessuno, nessuno si nasconda dietro Dio, nessuno si nasconda dietro Dio. Dio ci indica una strada di sporcarci concretamente le mani per impegnare la nostra vita, per impegnare la nostra libertà, per liberare chi libero non è. Questa è una strada che segna la speranza, che il cambiamento, siamo chiamati a metterci in gioco, a fare di più la nostra parte. Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi, se no continueremo a parlare ancora di Perrani, di Camorra, di Andrangheta, eccetera. Il problema non sta solo lì, sta nella rivolta delle nostre coscienze, della nostra responsabilità e nel nostro impegno. L'accorato intervento di Don Luigi Ciotti, il presidente di Libera. Siamo in diretta, stiamo concludendo questa prima mattinata in diretta dall'MPX di Padova per la quarta festa nazionale di avviso pubblico sul tema legalità organizzata, scuole, imprese, associazioni, enti locali in rete, prevenire e contrastare le mafie al tempo della crisi. La giornata proseguirà nel pomeriggio, sempre qui all'MPX di Padova, sul tema lo sport e passione, impegno, pratica della legalità. E poi in serata alle 20:45 il contagio mafioso, un focus sull'Andrangheta. Domani mattina torneremo in diretta alle 10:45, una tavola rotonda sul tema soldi sporchi, quando le mafie inquinano l'economia. Ci sarà il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, oltre a rappresentanti dei sindacati, dei costruttori, degli industriali, degli ordini professionali. E domani mattina, ripeto, in diretta alle 10:45 ancora su Blu Radio Veneto. E poi la giornata, i lavori proseguiranno anche nel pomeriggio sul gioco d'azzardo, l'ha citato Don Ciotti poco fa, business, criminalità e dipendenza, alle 16:45, e in serata domani alle 20:45 la memoria e l'impegno, la torre dalla chiesa Falcone Borsellino, storie di quattro uomini soli. L'ultima giornata, la terza, sarà sabato 27, non all'MPX ma all'auditorium del Centro Culturale San Gaetano. Al mattino il tema degli amministratori sotto tiro, la buona politica e le intimidazioni mafiose. Nel pomeriggio Porto Franco, politici, manager e spioni nella Repubblica dell'Andrangheta, e nella serata uno spettacolo teatrale di e con Giuliano Turone, La diritta via, la Costituzione, Dante Alighieri, senza distinzione di razza né di lingua. Noi andiamo a chiudere questa diretta iniziata alle 9, ora la sala con i tanti studenti che sono presenti si andrà a svuotare, mentre credo che stia iniziando un dibattito. Noi adesso daremo la linea alla regia e quindi ringraziamo Francesco Galante per il controllo emissione a Padova e di Daici qui per la regia all'MPX di Padova. Ne parleremo anche oggi all'interno di Primo Piano, riprenderemo alcuni passaggi di questa mattinata alle 17, poi domattina di nuovo in diretta alle 10.45. Da Mirko Cavallin è tutto per questa diretta speciale, la linea alla regia.